versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 in questo mercoledì 31 di dicembre, quindi siamo oramai poche ore prima del cambio di anno e ne approfittiamo per fare appunto una riflessione di fine anno, però io la faccio con due ospiti, perché come avete capito in questi giorni è quasi un record di durata della trasmissione, perché nei giorni festivi c'è poca pubblicità e quindi praticamente raddoppia, invece dei 14 minuti diventano 28 minuti veri di durata. E allora oggi con due ospiti tentiamo di capire da due punti di vista diversi ma sullo stesso argomento il bilancio 2014 e inizio 2015, e i punti di vista sono diversi, uno a favore e uno contro, ma l'argomento è uguale, e l'argomento è Renzi, il Presidente del Consiglio italiano. Quindi con i due ospiti chiediamo un bilancio dal loro punto di vista del perché sì e del perché no, e insieme chiediamo loro di dirci come la pensano su che cosa ci aspetta nel 2015 con Renzi, sempre perché sì perché no. La stessa cosa vi chiedo di fare naturalmente chiamando l'800240024 se vi va di dirci la vostra su questo argomento: Renzi sì o no, che cosa siete stati delusi, siete stati confermati nelle attese in questo anno e che vi aspettate per l'anno prossimo, e naturalmente l'800240024 è per voi il numero, per gli sms 349 238 6666. Io mi limito a dirvi, prima di presentarvi i due ospiti, che oggi mi ha molto colpito tra tutti i commenti uno che era l'editoriale in prima pagina della Stampa. C'erano due in prima pagina sulla Stampa dedicati al 2014 e 2015, ma quello dedicato al Premier era in particolare uno, quello di Marcello Sorgi. Marcello Sorgi è un editorialista con un'esperienza molto lunga, insomma pluridecennale, noto tra tutti i colleghi per essere una persona equilibrata, insomma moderata, non è uno che trinci con grande facilità giudizi estremi, radicali e così, ma mi ha molto colpito che nel suo commento, con un titolo che diceva tutto, l'eccessivo ottimismo del Premier Renzi, si concludesse questo editoriale con questa frase che vi voglio leggere. Dopo 10 mesi al governo, in altre parole, Renzi, scrive Marcello Sorgi sulla Stampa, dovrebbe aver capito che la stagione dell'uomo solo al comando è finita. Sarebbe ragionevole riconoscerlo, dice Sorgi. In fondo, anche questo, i sondaggi lo dicono chiaramente, il Premier piace ancora alla gente perché è giovane, perché si è preso in carico un paese che è arduo, se non impossibile, governare, e perché riconosce in lui un politico consumato, cioè uno che sa capire quando è meglio per tutti scendere a patti e siglare un compromesso. Ecco, la sintesi di Marcello Sorgi stamattina era: è bene che Renzi capisca che l'uomo solo al comando ha fatto il suo tempo, perché adesso di patti ne deve stringere, come, visto che c'ha un capo dello Stato, sentiremo stasera tra poche ore, è l'ultimo messaggio di Napolitano agli italiani, ma avremo tra poco un capo dello Stato nuovo da eleggere, c'è un Parlamento dove non sarà facile trovare una maggioranza per il Presidente del Consiglio, i giornali scrivono due ipotesi, una è quella del Nazareno con Berlusconi, che zoppica molto, e l'altra quella di tornare a un dialogo con 5 Stelle, mi sembra molto zoppicante anche questa prospettiva, ma insomma questo scriveva Marcello Sorgi questa mattina. Allora, i nostri due ospiti, diciamo il partito dei sostenitori, dei fan, incarnato qui da Fabrizio Rondolino, che è un giornalista e scrittore. Buon pomeriggio e grazie Fabrizio Rondolino. Buon pomeriggio, ciao Oscar. E diciamo il partito dei critici, insomma di quelli che più non si sono risparmiati nell'elencare le ragioni per cui Renzi delude o sbaglia o annuncia poi non fa, o fa cose diverse da quelle che dice, o le cose che fa sono né dette e quindi inaspettate e così via. Peter Gomez, che è il direttore del fattoquotidiano.it, grazie Peter di essere con noi oggi pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a Fabrizio. Allora, se Peter è d'accordo, io comincerei con il partito dell'ottimismo, cioè dei sostenitori. Fabrizio, allora, Rondolino, in cosa ti ha confermato le ragioni del sostegno a Renzi questo 2014? Mamma mia, una domanda impegnativa. Siamo Oscar, qui questa, per parlare di questo. Alla vigilia del cenone, ancora più impegnativa. nel senso che la nostra testa per fortuna ogni tanto è altrove, no? In questo momento. Lo so, però noi siamo in diretta, no? Anche in queste ore. Però quindi... noi siamo in diretta. Anche, no, guarda, secondo me ci sono due punti fondamentali del Renzi di governo, diciamo così, perché ormai siamo a tutti gli effetti in questa fase, no? La prima è quella della, chiamiamola, decostruzione. Allora, la mia opinione di fondo rispetto a questo paese è che ci siano delle energie in ciascuno di noi, ma che siano talmente sepolte da incrostazioni storiche, culturali, burocratiche, legislative, di corruzione, di malaffare, di corporazione, di familismo, insomma, vabbè, un elenco infinito che tra l'altro tu conosci benissimo e i tuoi ascoltatori anche. Allora, quest'uomo è riuscito a incrinare la crosta, io non dico fare la rivoluzione, però insomma incrinare, e un po' in tutte le direzioni, perché poi a seconda delle voci già se la prende con i sindacati, però c'è stato un periodo che ha litigato con Confindustria, poi ha litigato con i magistrati, poi ha litigato con la pubblica amministrazione, ogni volta, diciamo, individuando un elemento di resistenza. Ora, questo secondo me per l'Italia è essenziale. La seconda cosa che invece mi piace da vecchio rottame della Prima Repubblica è il primato della politica. Cioè, questo Renzi, tanto Trallero, tanto Fonzi, tanto, e in realtà è un politico come non ce lo ricordavamo più, uno che tiene testa a tutti, Quirinale incluso, perché adesso in questi ultimi mesi sono andati d'amore d'accordo, però voi vi ricorderete che invece anche sul Quirinale Renzi ha poi sempre rivendicato, come dire, le sue priorità, la sua autonomia di giudizio, di scelta, così è nei confronti della magistratura, così è nei confronti nostri, nei confronti dei media, no? Qualcuno pensa che sia scarso interesse o magari addirittura disprezzo, e io ci vedo invece proprio un'altra espressione di autonomia della politica, cioè il uomo politico risponde ai propri elettori, punto e basta, e per il resto decide e deve decidere, perché il mandato che ha ricevuto è un mandato a decidere. Mentre invece tutti quanti noi altri, i commentatori, i sindacalisti, i magistrati, abbiamo ciascuno un ruolo importante, ma diciamo così subordinato. Noi siamo sugli spalti, cioè lui è in campo e deve noi fare siamo gol. Sugli spalti. Allora, se ti dico a chiosa di questi due punti, i tuoi primi sì sono sì, è uno di rottura, e poi la prevenza della politica, lui decide. Se ti dico che c'è un eco che non si sentiva più dai tempi di... nome che divide terrificantemente, Bettino Craxi, è ovvio, perché la Prima Repubblica è stato lui. Comunque, per il momento torna in panchina e sentiamo il partito dei critici dopo questi due primi sì in questo 2014 a Renzi di governo. Peter Gomez invece perché no? No, per un motivo semplice, perché quello che Renzi diceva e continua a dire personalmente a molti elettori piace. Poi dopodiché, dato che siamo spiriti critici e spiriti pensanti, lo confrontiamo con la realtà dei fatti. E non parlo tanto delle promesse, la ripartenza col botto dopo l'estate, la ripresa è come l'estate, bruttina, ma però alla fine arriva, perché lo so, ci sono molte variabili che contano, ma parlo di altre cose pratiche. Non puoi garantire che avresti pagato entro una certa data i debiti della pubblica amministrazione alle imprese e poi non lo fai, e quando ti fanno notare che non l'hai fatto, magari non per colpa tua, dici che non è vero, perché questa non è né primato della politica né vecchia né nuova, è politica politicante. Promettere molto è una cosa importante in politica per aver consenso, come è molto importante poter parlare bene e avere sicuramente ragione Randolino rispetto agli altri protagonisti in campo. Dal punto di vista politico Renzi è un fuoriclasse. Dal punto di vista dell'uomo di governo tutti i dati ci dicono di no. Pensate cos'è successo per esempio con i decreti attuativi. I decreti attuativi è vero, ne ha smaltiti molti che arrivavano dall'epoca di Letta, ma attualmente le statistiche ci dicono che ci mette di più di quanto non facesse Letta. Stando ai numeri, sono stati promessi 3 miliardi per l'edilizia scolastica, li aspettavamo tutti, poi vai a vedere i numeri e non ci sono. Molto bene l'abbassamento delle tasse sul lavoro, ma poi se vai a vedere le tabelle del governo che ti dicono che la pressione fiscale complessiva l'anno prossimo aumenterà dello 0,2%, io continuo a essere tifoso di quello che dice Renzi. poi posso riflettere dal punto di vista economico, non tanto sulla giustezza di una cosa che ha fatto. La riforma del lavoro insieme agli 80 euro sono due cose che ha fatto o che sta per fare. Posso riflettere perché mi chiedo se è giusto ed opportuno in un momento di recessione riformare il mercato del lavoro correndo il rischio di creare altra incertezza nei lavoratori e quindi creare ulteriore sfiducia, che è uno dei motivi, non l'unico, per cui l'economia non riparte. Però questa è una discussione da economisti, di lana caprina, voglio dire, da questo punto di vista. Sui numeri, i numeri stanno lì e non sono bei numeri, sono i numeri sulla scarsa produttività del governo. Ha ragione Sorgi, è un governo debole al di là di Renzi, con figure dilaniate dai conflitti di interessi. Pensate alla decisione di fare Poletti ex presidente della Lega Cooperativa e ministro del lavoro, e la Guidi, ex posizione importante in Confindustria, a metterla allo sviluppo. Bella la rottamazione a parole, la vorremmo anche nei comportamenti, nei fatti. Allora, la seconda domanda, che vale uguale per tutti e due, ma la grande forza di Renzi, al di là del fatto, come al solito arrivano un mucchio di sms che ricordano che Renzi in realtà è uno dei figli di tre governi in seguito di Napolitano, cioè non è eletto dagli italiani, ma detto tutto questo, che è un fondamento però dell'anomalia italiana. Detto tutto questo, la domanda che vi faccio, prima a Rondolino, non è che per caso conta molto anche nelle qualità e nei difetti di Renzi, ma il fatto che voi dite a paragone degli altri interlocutori in campo, ma a me sembra che sia semplicemente solo in campo, cioè a destra non c'è nessuno che in realtà abbia i numeri, le qualità per governare, non c'è neanche un leader vero contrapposto, perché stanno lì a litigare ancora aspettando che le pene finiscano, accessorie di Berlusconi, forse Berlusconi, forse no, dice Salvini, eccetera, eccetera. Ma in realtà è solo in campo, e quando mi si obietta, però viene meno la sua natura di leader del PD della sinistra, il patto del Nazareno, io dico agli elettori del PD, a chi ha votato PD, a chi continuerà a votare PD, guardate che il patto del Nazareno in realtà fa i vostri interessi, tiene in piedi un leader che non potrà mai più credibilmente, cioè Berlusconi, essere candidato contro Renzi per vincere le elezioni. Allora, domanda, non è che le sue qualità e i suoi difetti hanno la vera forza nel fatto che non c'è nessun altro in campo oltre a lui? Rondolino, che dici? No, questa è una domanda importante, una domanda cruciale, ed è anche vero quello che dici, che Nazareno è una specie di fase suprema dell'antiberlusconismo, diciamo così. Sì. Una volta riposto il manganello e lo smacchiatore, e effettivamente Berlusconi si è anche un po' afflosciato. Però no, adesso parte gli scherzi, e questo è un problema vero, in parte dipende anche da quello che ricordavano i tuoi ascoltatori, cioè che questo è comunque un governo di larga coalizione, sostenuto da un Parlamento che, ancorché recente, appartiene a un'era geologica precedente, e non è un monocolore Renzi, anche se spesso lo sembra. I renziani puri sono uno, due, no? E sono anche quelli che lui, insomma, Del Rio, la Boschi mi vengono in mente, che lui usa più spesso anche su argomenti che non sono propriamente loro, no? Dopodiché che l'uomo trascuri in modo, secondo me, grave la questione della squadra, del gruppo, della classe dirigente, è indubbio. Così come è indubbio che risplende in un panorama di terremotati. Però sai, qui allora il dubbio dalla, come dire, il bivio, vabbè, ma quindi, perché alcuni... Ma no, non è colpa sua, per esempio, è chiaro. Peter, no, credo che adesso poi sentiremo Peter, però immagino che lui sia tra quelli, lo sono anch'io, insomma, che temono che poi questa nuova DC renziana non è cattiva in quanto DC, ma è cattiva in quanto unica, in quanto partito unico senza alternative, perché se da una parte ci sta Salvini e dall'altra ci sta Landini, con Grillo, variabile impazzita, è evidente che Renzi vincerà sempre le elezioni, ma questo non è una cosa che fa bene a nessuno, tantomeno a Renzi. Dopodiché la mia scommessa è che intanto forse per la prima volta si è costruito a sinistra una cosa decente, cioè un partito in grado di conquistare quello che si chiama una volta il centro elettorato, no? L'elettorato moderato, cioè insomma di essere spendibile nella partita del governo. E quindi l'auspicio è che fisiologicamente si formerà qualcosa del genere anche dall'altra parte. Vabbè, ecco, io dici, lui intanto sta... Rondoio dice, non è colpa di Renzi, sì, può essere che riduca di più per questo, però intanto lui sta costruendo una roba a sinistra diversa dal solito, candidata a governare, perché magari perde pezzi a sinistra, però ne guadagna molto di più sull'elettorato di centro. Stessa domanda per Peter Gomez, l'uomo solo al comando, ma non è l'unico in realtà, è vero, davvero in campo. Fa bene questa cosa, Peter? Ma certo che lui è l'unico al momento davvero in campo. C'è da chiedervi per quanto lo sarà. Se le previsioni dell'Istat sono corrette, che dicono che l'anno prossimo avremo, ma l'abbiamo visto tutti gli anni, diciamo una timida ripresa di qualche zero virgola, ma non avremo nessun aumento dei posti di lavoro e anzi avremo probabilmente un ulteriore aumento dei tassi di disoccupazione, con la pressione fiscale così alta, è prevedibile, come già stanno segnalando i primi sondaggi, che Renzi diventi sempre meno popolare. Tenete conto che lui ha passato i 9 mesi. I 9 mesi sono in tutta Europa, tradizionalmente ci dicono gli analisti politici, il periodo di luna di miele col paese. È favorito dal fatto dell'apparente assenza di avversari. In realtà io rimango convinto che per il bene di Renzi, che lui dovrebbe portare il paese alle elezioni, voglio dire, per avere finalmente una maggioranza coesa e per magari dover essere costretto a fare un accordo con qualcun altro scritto alla tedesca e per dimostrare realmente cosa sa fare. Perché sapete, è un pochino antipatico vedere Renzi che dichiara i tagli li faremo lo stesso anche se va via Cottarelli e poi vedere che i 25 dossier di Cottarelli rimangono nel cassetto, non vengono resi pubblici, magari sono tutti sbagliati, ma lo vorrei sapere, esatto, lo vorrei vedere, esatto, cosa diavolo ha deciso, perché Renzi ci ha detto, ci diceva di tagliare la luce nelle strade, sono d'accordo che non si può fare, ma probabilmente non diceva solo questo, sì, vorrei vedere e capire perché in Parlamento quando si è detto con la nuova legge che si sarebbero tagliate le municipalizzate, non si è, le partecipate e municipalizzate, non si è stabilita una sanzione per chi non scompare. Bravo. Allora, questo è un rischio di grande truffa nei confronti degli elettori. Allora, aspetta un secondo, ti interrompo solo perché ci abbiamo 60 secondi di strada e poi torno a darti la parola perché non è ancora finito il ragionamento, però faccio notare a tutti e a Rondolino per il suo prossimo round che Peter fa un altro passo, dice qui le elezioni ci vogliono, le convochi senza raccontare il 2018 perché altrimenti c'è un problema e le elezioni obbligano anche l'altra parte a fare una scelta poi se vuole vincere o non vincere, il leader, il programma eccetera eccetera. Questo devo dire è un pezzo di ragionamento democratico che mi sembra non sottovalutabile perché non si può passare da un governo che aveva i 100 giorni, poi diventano 1000, poi diventano chissà quanti. Naturalmente c'è di mezzo un nuovo capo dello Stato da eleggere, però la questione del rispondere ai elettori per consentire anche all'altra parte di organizzarsi a me non sembra proprio una questione secondaria in questo 2015. Strada e poi torniamo ridando la parola a Peter. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta 16:49 per i 58 secondi, bilancio 2014 e previsione 2015, ma dal punto di vista Renzi sì o no, un critico e un fan nostri ospiti, intanto rapida rassegna dei messaggi fino a questo momento, parecchi a dire la verità, diciamo un terzo sono quelli che invocano un governo legittimo, cioè elezioni con coloritura diversa nel frasario e per il resto un terzo invece favorevole, quindi diciamo partito rondo favorevole a Renzi, per esempio, ne leggo uno, Renzi è l'unico che da 20 anni riesce a smuovere le stratificazioni e rendite di posizioni italiane senza neanche nascondersi dietro un dito sul retaggio della sinistra, e l'altro terzo che invece però è durissimo nel considerare Renzi chi un pericolo addirittura, chi un millantatore finché non troverà qualcuno che è in grado di non reggergli il gioco sui numeri e sugli annunci, e quindi questo è un critico insomma del centrodestra, questo tipo di messaggio che arrivano, però diciamo siamo un terzo, c'è anche chi è dichiaratamente dice di destra e dice per quanto non sia più candidabile, però alcuni dicono Silvio in confronto a Renzi, Berlusconi naturalmente era uno statista raffinato. Allora abbiamo interrotto Peter Gomez che non aveva finito dopo aver detto però elezioni, ma te le aspetti davvero Peter le elezioni, le convoca davvero in questa condizione? No, io non credo che le convocherà, sarebbe una grande prova di coraggio e secondo me una prova di saggezza e lungimiranza da parte sua, perché è indubbio che col tipo di maggioranza che ha all'interno del Parlamento io critico quello che non ha fatto, quello che non ha promesso, ma sono una persona ragionevole e mi rendo conto che molte cose sono complicate rispetto a quello che c'è in Parlamento. Il mio dubbio è che Renzi però non studi a fondo i dossier. Questo dubbio io ce l'ho molto forte, perché altrimenti si renderebbe anche lui il conto del rischio, per esempio una cosa che mi ha molto colpito in questo semestre europeo in cui sinceramente ha portato a casa molto poco, ci ha raccontato come grande vittoria i 300 miliardi che avrebbe promesso Juncker come investimento, sappiamo bene tutti, lo sappiamo noi che siamo un po' più tecnici, ma poco a poco l'anno prossimo se ne accorgeranno anche gli italiani, i miliardi sono 21 per 28 paesi. Meglio di niente, ma sostanzialmente certo. Non c'è niente. Ok, ti fermo un secondo, io datemi atto, mi sto trattenendo dal dire quello che penso. Io dal punto di vista dell'economia, l'unica cosa che vi ricordo a chi è in ascolto, questa legge di stabilità, dal mio punto di vista, era una legge concepita in aprile con Padoan per andare a votare in questo 2015, le cose poi sono cambiate. Perché lo dico? Perché tutto ciò che riguarda l'enorme aumento di entrate, l'enorme, sono più di 30 miliardi solo di clausole di salvaguardia, più un'altra quindicina di aumento di imposizione ordinaria, è tutto spostato sul 2016-2017, idem i tagli di spesa. Quindi questa legge di stabilità, che in realtà non è vero che da 18 miliardi netti di tagli di tasse, non è vero, anche se Renzi lo ripete, perché naturalmente ha gli sgravi, l'IRAP lavoro, importantissimo, per carità, gli 80 bonus di euro, che tecnicamente non sono uno sgravio ma sono un aumento di spesa, ma comunque uno sgravio, sono comunque dall'altra parte, o compensati di maggiori entrate, la stangata retroattiva per esempio sul risparmio previdenziale, e le casse professionali, o sono in deficit, la parte in deficit aggiuntiva alla legge di stabilità. Quindi, per dire, siccome è tutto spostato verso il 2016-2018, per me delle due l'una: o ci sono le elezioni, e credo che farebbero bene a dire la verità, oppure poi con la legge di stabilità di qui a un anno arriva un tempo di scelte terrificanti. Ecco perché questo sta scritto nelle carte del governo, non lo dico io, mi fermo qua e sto zitto nel chiedere però a questo punto Fabrizio Rondolino se tu ci credi alle elezioni del 2015. Ma guarda, il problema lo sappiamo benissimo, però non, in questo momento non abbiamo ancora parlato, quindi tocca a me ricordarlo, e che noi non abbiamo una legge elettorale che ci consente di votare, perché tra le tante stranezze di questo paese c'è anche quella che la Corte Costituzionale, con un ritardo secondo me colpevole perché è impiegato 7 anni e con una procedura discutibile, perché tutto origina, lo ricorderanno gli ascoltatori, dall'esposto di un privato cittadino, l'avvocato Bozzi, che tra l'altro cos'è, il discendente del Bozzi, del Bozzi liberale, della prima commissione per le riforme istituzionali, quindi c'è anche una splendida ironia in questo. Vabbè, insomma, comunque la Corte Costituzionale, senza chiedere permesso a nessuno, ha ripristinato il sistema proporzionale con sbarramento, perché quello è rimasto, no? Quindi noi siamo senza legge elettorale, o meglio c'è una legge elettorale che costringerebbe le larghe intese, e questo onestamente credo che non la voglia davvero nessuno. Fare la nuova legge elettorale è il cantiere aperto in cui sguazziamo oramai da mesi. L'alternativa è il ritorno al Mattarellum, e passerebbe comunque, non lo so, io per un voto parlamentare quantomeno molto rischioso, perché il Mattarellum... Quindi tu dici comunque ci sono problemi tecnici, al di là il nuovo capo lo sa leggere la legge elettorale. Problemi tecnici grossi. No, politici, chiaro, non è che sì, sono... Sì, perché no, quindi, dice, appunto, il Mattarellum a stringere pure... non te le aspetti le elezioni del 2015. No, io me ne augurerei fermamente, io sono d'accordissimo sia con te sia con Peter sul fatto che Renzi, chiunque governa un paese ha bisogno del consenso dei suoi elettori, questo sì. Diciamo, è una banalità ed è effettivamente un'altra assurdità italiana che dobbiamo ripetercela, perché questo effettivamente il terzo governo, in questa ragione, per la propaganda berlusconiana ha ragione, no? Il terzo governo non scelto dagli italiani, l'ultimo è stato quello di Silvio, però temo seriamente che non sia possibile farlo. Ok, e quindi in nome del realismo, poi vediamo cosa succede con la crisi greca, i mercati, l'Europa, insomma c'è tutto un quadro, la crisi russa che del tutto stiamo un po' sottovalutando, ha degli impatti sull'economia europea fortissimi. Comunque, detto tutto questo, rapidi alcuni ascoltatori, sentiamo, si chiama Oscar, ma non lo scelto io, Oscar da Sondrio. Oscar, prego. Ah, buonasera. Buonasera. Tutto complimenti, la seguo sempre molto. Ma no, andiamo al punto. Quindi è un po' incazzoso. È un po' incazzoso. Allora, sì. Senti, mi piace. Un piccolo appunto, io faccio consulente del lavoro. Sì. Comma 118, legge di stabilità. Sì. Quello che interessa urgentemente, assunzione a tempo indeterminato con quella prospettiva di avere uno sgravio triennale di un massimo di 8.000 euro all'anno. Sì. Bene. Io non ricordo, ma mi pare che oggi sia il 31 dicembre. Questo è un tema che lei tocca, ha ragione, perché vado subito. Non sappiamo. Come funziona? Tutto lì. Allora, guardi, questo problema sollevato da Oscar è un problema fondamentale. Oggi trovate sulla stampa un editoriale di Luca Ricolfi, sulla stampa, tra l'altro vi preannuncio in diretta, non dovrei farlo perché non è ancora ufficiale, insomma, Luca Ricolfi tra pochissimo lascerà la stampa e verrà al Sole 24 Ore, io ne sono molto felice di questo. Luca Ricolfi sulla stampa sottolinea esattamente questo, poiché non si sa ancora come funziona né il bonus, né ci sono davvero le circolari che servono dopo i decreti attuativi per tutta la nuova disciplina dei contratti di inserimento triennale, così, questo cosa vuol dire? Vuol dire che le imprese, fino a che non ci sono le circolari attuative e come funziona il bonus, resteranno a braccia concerte per le assunzioni. È il problema che diceva Peter prima. Guardate, l'economia è fatta di tempi reali oramai, e quindi le tante chiacchiere sulle riforme, quello che conta è che se non si hanno subito le norme attuative, poi non entra in funzione niente. Sentiamo Roberto dalla provincia di Milano. Roberto, prego. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Volevo passare, come ho detto, sul discorso della spesa verso l'investimento. Ci ricordiamo che all'inizio del mandato Renzi aveva detto ai comuni: ho 3,5 miliardi disponibili, ognuno faccia la richiesta per sistemare qualche scuola dove ha dei problemi. Esatto. Una cosa più che legittima, più che doverosa, perché le scuole... Lo ricordava Peter Gomez prima, sì. E io ho perso un attimino la telefonata. Io ho scritto a Renzi, lui aveva messo una persona nel suo staff, scrivendo anche sui giornali, questa persona è preposta a rispondere ai cittadini. Le ha risposto? Mai risposto. Io ho detto a Renzi: tutto giusto, tutto meritevole quello che lei fa, però almeno 1 milione di euro dei 3,5 miliardi, perché non l'ha messo per progettare un campus? C'è un accorpamento in un territorio di tutte le scuole, sinergie, positività, mettendo insieme pubblico e privato. Allora, io la ringrazio, naturalmente non abbiamo alcuna pretesa di esaurire l'argomento. Peter, in questo caso, secondo te, e sull'elezione del nuovo capo dello Stato, che si vede davvero cosa succede o cosa non succede, va avanti con Berlusconi, secondo te? Non lo so, perché non sappiamo se Berlusconi è in grado di controllare il suo partito, e non sappiamo nemmeno se Renzi è in grado di controllare il suo. Ricordo a tutti una cosa, che Pertini, che a mio avviso fu un ottimo presidente, riuscì ad avvicinare gli italiani alla politica, fu eletto credo alla ventitresima votazione. Vediamo quanto balleremo. Intanto grazie a Rondolino, grazie a Peter Gomez, passate tutti un buon fine anno, continuate con Radio 24.